2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 6 febbraio 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. Vi ricordo che il nostro sito internet è nuovo da un paio di settimane, lo abbiamo ricordato la settimana scorsa, ma se ancora non avete fatto visita a www.radio24.it potrete apprezzare il nuovo design, un sito internet sicuramente molto più semplice da utilizzare, meglio organizzato, quindi provatelo e poi magari inviateci anche le vostre considerazioni. Ricordo che anche questa puntata di 2024 sarà disponibile attraverso il nostro sistema podcast. È molto semplice utilizzarlo, il servizio podcast vi dà la possibilità di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione settimana dopo settimana. Se lo volete anche in maniera automatica, accendete il computer e alcuni software che fanno quello di mestiere, cioè sfruttano i servizi podcast per scaricare i file, vi aggiornano automaticamente la nostra puntata. Quindi insomma un servizio sicuramente utile e molto semplice da utilizzare. Questa settimana iniziamo da una notizia che arriva dall'Australia, dove le case cinematografiche di Hollywood, le famose major, hanno perso una causa definita da alcuni esperti cruciale sul copyright. Come sapete, negli ultimi anni, nel tentativo di arginare lo scambio illegale di file su internet, file coperti dal diritto d'autore, si sta cercando, almeno i detentori di questi diritti, stanno cercando di scaricare la responsabilità sui fornitori di connettività, cioè quei soggetti che ci danno la DSL e gli ISP, gli Internet Service Provider. Un po' come ritenere responsabile la società che gestisce un'autostrada per quello che le auto trasportano, ma questo è un tentativo che si sta facendo un po' in tutto il mondo. Un tribunale australiano ha stabilito che iiNet, che è un provider internet australiano, non è responsabile per i download non autorizzati di film da parte degli utenti. Qua si parla di film, ma naturalmente il concetto può essere esteso anche ad altre cose come la musica, i videogiochi, i software, eccetera, eccetera. La causa era stata avviata da un gruppo di grandi studios di Hollywood che tentava di provare che iiNet non solo non aveva adottato misure per fermare il file sharing illegale, ma aveva violato a sua volta il copyright immagazzinando e trasmettendo i dati attraverso il proprio sistema. Una causa simile, lo ricordiamo, è stata avviata a Roma contro Telecom Italia dalla Federazione Antipirateria Audiovisiva. Tra l'altro, secondo la difesa, la federazione, che si chiama FAPAV, avrebbe spiato centinaia di migliaia di utenti per arrivare alla conclusione che molti di questi erano utenti di Telecom Italia e scaricavano file coperti da diritto d'autore. Quindi sarà sicuramente interessante quello che i giudici diranno. La sentenza in questo caso, per il caso italiano, è attesa per il 10 febbraio, quindi per la prossima settimana. Un'altra notizia riguarda il mondo della telefonia mobile. Da questa settimana il sistema operativo Symbian è open source, il che significa che il codice sorgente è disponibile per tutti gratuitamente. Una notizia che riguarda gli sviluppatori di software, ma che dovrebbe avere ripercussioni positive anche per i consumatori e per le aziende che utilizzano questo software. Al momento nel settore della telefonia mobile sono open source Linux, Android, che si basa sempre su Linux, e Symbian. Rimangono chiusi e proprietari i sistemi operativi, quello dell'iPhone, Windows Mobile della Microsoft. È anche un po' una filosofia con cui ci si avvicina al mercato, con cui ci si rivolge al sistema molto complesso di sviluppatori, aziende che producono hardware, eccetera, eccetera. Symbian, lo ricordiamo, è il sistema operativo più diffuso tra gli smartphone, utilizzato soprattutto da Nokia, che ha acquistato poco tempo fa la Symbian Foundation, la fondazione che sviluppa Symbian, ma viene utilizzato anche da Sony Ericsson, Samsung, da Motorola e anche da marchi giapponesi non venduti in Italia come Sharp, Fujitsu e Mitsubishi. A proposito di Nokia, Nokia ha registrato in una settimana circa 1 milione di download di Ovi Maps 3.0, la nuova versione delle mappe all'interno delle quali c'è anche il servizio di navigazione satellitare gratuito. Le macchine le mappe di Nokia, le Ovi Maps, sono da tempo gratuite, ma come abbiamo raccontato recentemente a 2024, la novità degli ultimi tempi è che adesso è gratuito anche il servizio di navigazione. Di fatto, con questa nuova versione, potremmo dire un cellulare dotato di ricevitore GPS può trasformarsi in un navigatore satellitare. Secondo i dati forniti da Nokia, l'Italia è tra i 5 paesi, con Cina, Gran Bretagna, Germania e Spagna, che al 31 gennaio hanno registrato il maggiore numero di download. Per il momento sono 10 gli smartphone Nokia che possono utilizzare le nuove mappe, altri si aggiungeranno nelle prossime settimane. In effetti c'è molto interesse. In questa ultima settimana ho ricevuto molte email o anche domande dirette di colleghi e amici che mi dicevano: ma come faccio per aggiornare il mio cellulare? Beh, alcuni avevano un cellulare che era possibile aggiornare, altri non ancora. A proposito di cose gratis, in questa puntata di 2024 vogliamo parlare di un servizio che è un servizio telefonico, ma poi sentirete dalle parole che diremo tra poco che in realtà è un servizio che si basa su internet e si basa anche su un concetto di cui parliamo spesso a 2024, cioè di quanto la pubblicità sia diventata una moneta per sostenere buona parte dei servizi che noi utilizziamo su internet, servizi che di fatto ci appaiono come gratuiti ma che sono appunto sostenuti dalla pubblicità. Saluto Paolo Orlandi, che è uno degli ideatori, l'ideatore e fondatore di Never Alone. Benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno. Dicevo, questo è un servizio telefonico, ma internet è una parte importante di questo servizio. Never Alone è il nome, in realtà poi va citato il numero di telefono, e vorrei partire proprio da qua, che è 1-0-0-800-800-854. È un numero strano, in realtà è simile all'800 italiano. Sì, ma è molto più lungo come estensione, ha questi due zeri che è fondamentale digitare all'inizio della chiamata. Perché? Perché l'idea è quella di poter rintracciare, anche quando si è fuori dal territorio italiano, il nostro servizio e poter, diciamo, avere sempre la possibilità di contattare i nostri operatori, che diventano un po' gli amici fidati che si contattano nel momento di necessità, operatori che hanno disponibile internet. Quindi partendo dal numero, il numero è un numero verde internazionale, quindi gratuito. Gratuito, è una numerazione, si chiama WIFN, cioè Universal International Free Phone Number. È un numero che è molto diffuso, purtroppo non molto conosciuto, ma è diffuso da parecchi anni, e viene assegnato a tutti coloro che hanno un'esigenza di essere rintracciabili da tutto il mondo, esattamente. Quindi voi, diciamo, partite dall'Italia per poi estendervi anche ad altri paesi, immagino. Certo, il nostro obiettivo... Anzi, già qualche altro paese lo avete attivato. Sì, esatto, il nostro obiettivo è quello che questo diventi il servizio europeo, no? Di assistenza in caso di necessità. Oggi noi iniziamo dall'Italia perché l'Italia è un'idea italiana, ma il nostro obiettivo è che se tutto procederà per il verso giusto, noi apriremo call center in Spagna, in Francia, in Germania e tanti altri paesi in lingua, quindi il servizio non sarà solo in lingua italiana ma anche per i nostri quindi concittadini detto, europei. Detto del fatto che è un servizio gratuito, il numero è un numero verde, uno chiama per avere che tipo di informazioni? Le informazioni sono tutte quelle disponibili sulla rete. Noi abbiamo telefonate che sono, diciamo, le più semplici per avere numerazioni di telefono, indirizzari, persone che magari si sono perse e chiedono un'indicazione stradale, ma molto di più domande sono più rivolte a notizie, informazioni, i numeri del lotto. Quindi per dire, uno potrebbe chiamare, non è che mi legge i titoli che ha il sole24ore.com? Perfetto, potrebbe essere un'idea. Quindi come... questo è anche una, diciamo, un servizio che potrebbe servire a chi non ha internet per in qualche modo stare in contatto con internet, cominciare ad avere qualche contatto con la rete. Esattamente, esattamente. O così come gli appassionati di sport che vogliono avere subito, immediatamente, i risultati della partita della loro squadra del cuore. Quindi gli operatori hanno di fatto davanti internet e tutto quello che... viene messo a disposizione da internet può essere suggerito a chi chiama. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco e parliamo anche di pubblicità, perché naturalmente anche in questo caso è fondamentale l'introito pubblicitario. 2024. Tra poco parleremo del passeggero digitale, come il processo di digitalizzazione ha rivoluzionato negli ultimi anni l'esperienza di viaggio attraverso aeroporti e compagnie aeree. Ne parliamo tra poco a 2024. Adesso stiamo parlando di un servizio di informazioni telefonico basato su un numero verde internazionale che tra poco vi ricorderò, che si chiama Never Alone, che si regge sulla pubblicità ed è per questo che per il consumatore finale è gratuito. Il numero, lo ricordiamo, è 008 008 008 tre volte 0054, quindi detto anche in un altro modo 00800 800 854, ma forse poi lo ricorderemo anche sul nostro sito internet. Paolo Orlandi è il fondatore. Allora vorrei capire, Orlandi, la pubblicità come entra e come sostiene questo business, come la erogate anche ai vostri clienti? Sì, allora in effetti la similitudine con internet è corretta ed è molto così forte. Perché? Perché in effetti il contatto è one to one, nel senso che chi chiama sente uno spot pubblicitario e poi parla con l'operatore. Come funziona? L'utente chiama il numero di telefono. Nell'attesa in cui l'operatore si liberi o si renda disponibile, si ascoltano brevissimi spot pubblicitari. Oggi siamo sull'ordine massimo di 30-40 secondi di attesa. Cercheremo di mantenerlo per il futuro, è il nostro obiettivo, ecco. E dopodiché può parlare con l'operatore per tutto il tempo che lui richiede, fare tutte le domande che vuole, e quindi non c'è una limitazione di tempo. Ecco, questo è il nostro obiettivo, cioè deve essere veramente una persona con cui io trasferisco le mie domande, le esigenze, e con tutta calma si possono così trovare le informazioni richieste, indirizzando l'operatore su siti che si sa già che riporteranno l'informazione, oppure magari aiutandosi a cercare l'informazione se magari più complessa. La pubblicità è questo momento pubblicitario iniziale è veramente lo sponsor dell'intera chiamata, è per noi fondamentale, e è la business idea di questo e voi siete un servizio Alone. Diciamo, siete un servizio che funziona così come ad esempio un motore di ricerca. Io utilizzo il motore di ricerca gratuitamente, però so che il servizio è pagato poi da sponsor. Sì. Siete un operatore pubblicitario, quindi, che si rivolge a che tipo di aziende? Noi siamo, corretto, noi siamo un media pubblicitario, si rivolge a grandi aziende nazionali, di importanza nazionale, pardon, tutti i comparti merceologici possibili, da quello bancario, finanziario... Però grandi aziende, non piccole. Grandi aziende, sì, per il momento sì. Il nostro obiettivo è quello, cercare sempre più di creare una localizzazione. Ecco, infatti volevo arrivare a questo punto. Del servizio. Con questo tipo di numerazione, 00, 800, eccetera, eccetera, voi siete in grado di capire da dove arriva la chiamata, anche se una chiamata arriva da, ad esempio, un telefono cellulare? Sì, certo. Quindi potreste tecnicamente erogare una pubblicità localizzata? No, allora, non è una tecnica nascosta. Allora, se arriva da telefoni fissi, e abbiamo parecchi numeri di telefoni fissi, beh, col prefisso è già chiaro. Col cellulare noi riusciamo in qualche modo a sapere da dove ci chiamano, solo esclusivamente perché ci dicono che sono di una zona più piuttosto che l'altro. Cioè, okay, noi facciamo la richiesta, se l'utente è disponibile a darci questa informazione, noi chiaramente... Però diciamo in automatico, non potreste non erogare una pubblicità, che ne so, di Bologna, perché sapete che uno chiama da Bologna. No, certo, questo sì. Si chiama da fisso, sì. Okay. E questo è il nostro obiettivo futuro, no? Quindi anche pubblicità locale. Anche pubblicità locale. Però oggi, come idea, siccome vogliamo provare che è un media valido per investitori pubblicitari, stiamo puntando più per provare alle grandi imprese, ai big spender, che in effetti si può avere un interesse da parte di chi chiama ad ascoltare questa pubblicità. Un'ultima domanda riguarda, voi avete naturalmente un business plan, come tutte le imprese nuove e innovative, che dovrebbe raggiungere un punto di equilibrio quando? Beh, allora, il punto di equilibrio è previsto per l'anno prossimo 2011. Come ho detto in anticipo, la nostra idea è quella di diventare europei, quindi in base alla crescita vedremo se non spostare di qualche anno questo ritorno dell'investimento. Bene, io ringrazio Paolo Orlandi per essere stato con noi, in bocca al lupo. Grazie mille. Indicheremo il numero di telefono anche sul nostro sito internet, comunque Never Alone, questo è il nome del servizio, ha anche un sito web www.never-alone.com, quindi neveralone.com. Domani alle 10.39 partirà, ora italiana, partirà lo Space Shuttle Endeavour dalla rampa di lancio di Cape Canaveral per una missione diretta alla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo ci sarà il Nodo 3, chiamato anche Tranquility, quindi Tranquillità, uno dei moduli abitativi più grandi che verrà attaccato alla Stazione Spaziale Internazionale. Nodo 3 è stato costruito in Italia da Thales Alenia a Torino, assieme alla cupola, anch'essa è una parte del carico dell'Endeavour che permetterà agli astronauti di vedere lo spazio. Finora l'unica possibilità di vedere all'esterno sono dei piccoli oblò rivolti verso la superficie terrestre. Sarà possibile vedere il lancio su NASA TV, la TV della NASA, disponibile sul sito internet nasa.gov. Ci saranno altri 4 lanci quest'anno, ma non solo quest'anno, prima della fine del programma spaziale degli Space Shuttle, che da settembre andranno in pensione, potremmo dire andranno nei musei. E per un'era che si chiude, un'altra si sta per aprire, perché lunedì alle 19 ora italiana dovrebbe volare per la prima volta la nuova versione del Jumbo, il mitico Boeing 747, che in questa nuova versione si chiamerà 747-8. L'azienda americana ha ridisegnato il Jumbo per fare concorrenza all'Airbus A380. In questo caso parliamo però di grandi aerei per un piccolo mercato, mentre molti di voi sapranno che Boeing punta molto sul 787, il Dreamliner, che ha già volato e i cui primi esemplari dovrebbero essere consegnati entro la fine dell'anno. L'industria aeronautica è stata forse una delle prime a subire la trasformazione resa possibile dall'informatica, quello che chiamiamo il processo di digitalizzazione, che negli ultimi anni ha coinvolto anche i passeggeri, mentre fino a poco tempo fa forse se ne accorgevano solo gli addetti ai lavori. Pensate cosa ha significato la diffusione di internet per la vendita dei biglietti aerei. Senza internet non ci sarebbero le compagnie low cost. Pensate alle altre innovazioni come il check-in con le macchinette, il check-in online o addirittura oggi direttamente sul proprio cellulare. Insomma, le rivoluzioni sono tante, ne vedremo anche nei prossimi anni. Forse al centro ci sarà anche in questo caso lo smartphone. Per parlare di tutto ciò è con noi oggi Francesco Violante, che è amministratore delegato di SITA, un'azienda che opera nel settore aereo dal 1949, è stata creata da 11 compagnie aeree come provider di soluzioni tecnologiche per il settore e oggi è praticamente l'unica azienda di questo tipo, insomma un colosso del settore. Saluto allora Francesco Violante, benvenuto a 2024. Grazie. Voi di fatto fornite tecnologia per aeroporti e compagnie aeree, cioè chi viene da voi, ma del resto tutte le compagnie aeree vengono e si riforniscono da voi, può costruire un sistema completo sia per quanto riguarda i servizi aeroportuali sia per quanto riguarda le compagnie. Detto in estrema sintesi, che cosa fa SITA? Ma SITA è la società che è una cooperativa che appartiene a più di 500 compagnie aeree e praticamente offre servizi di telecomunicazione e di applicazioni informatiche per l'automazione del processo di viaggio dei passeggeri e dei sistemi cargo. La digitalizzazione del settore aereo è un processo che è iniziato parecchi anni fa. Forse potremmo dire SITA è nata nel 1949 proprio per questo. Sì, è vero, perché bisogna pensare che in qualsiasi location, in qualsiasi posto in cui, in qualsiasi aeroporto ci sia un volo, arrivi un volo, è necessario per potersi collegare con le compagnie aeree avere un sistema di telecomunicazioni, cioè ciascuna compagnia aerea ha bisogno di collegarsi con qualsiasi aeroporto dove vola. Questo richiede una rete internazionale di grandissime capacità, per cui la società è nata proprio dall'esigenza di creare una rete internazionale che poteva essere messa a fattor comune per tutte le compagnie aeree in modo da ottimizzare i costi relativi. Poi strategicamente dalla connettività semplice e pura di tipo telefonico si è passati a una connettività di dati, a una connettività di informazioni e quindi allo sviluppo di applicazioni che consentissero alle compagnie aeree di operare meglio a livello internazionale, quindi di offrire migliori servizi. Quindi lei ci sta dicendo che noi conosciamo internet grosso modo da una trentina di anni, ma voi già 60 anni fa avevate creato un sistema di connettività dati, sì, tra gli aeroporti, sì, del mondo. Esattamente così. Oggi, grosso modo, quanti aeroporti coprite? Copriremo l'80%, 90% di tutti gli aeroporti del mondo, cioè è una rete veramente di grandissime. Quindi alcune centinaia in tutto il mondo? Io direi sì, migliaia. Ah, migliaia? Aeroporti sono tantissimi in tutto il mondo. Quindi forse mi confondevo con i paesi. Alcune, sì, ecco, più di 200 paesi, siamo presenti in più di 200 paesi a livello internazionale. Senta, oggi a proposito di aeroporti, poi entriamo nello specifico del consumatore, che è una delle cose più interessanti che stiamo vedendo negli ultimi anni e vedremo sempre più nei prossimi anni. Consumatore, che in questo caso si chiama passeggero. Sì. Per quanto riguarda gli aeroporti, anche l'aeroporto, così come altri sistemi che conosciamo nella nostra vita, è completamente digitalizzato, cioè ormai l'aeroporto vive basandosi su reti, computer e informazioni digitali. Sì, è vero, cioè sarebbe impensabile oggi poter andare in un aeroporto e non utilizzare i sistemi informatici, dai sistemi di check-in per esempio, che sono sistemi che devono consentire il collegamento con i mainframe, i reservation system delle compagnie aeree, ai sistemi di gestione dei bagagli per esempio, ai sistemi di informazione ai passeggeri. Ma questa è la parte visibile al passeggero. Poi c'è un altro mondo nell'aeroporto, che è cosiddetto il mondo che è rivolto agli aerei, quindi alla gestione del taxi time per esempio, del tempo di permanenza di un aereo on gate, o gestione dei sistemi di controllo del traffico per esempio, che non sono visibili al passeggero, dove ipotizzare l'utilizzo gestire queste informazioni senza sistemi informatici è impossibile. Ecco, le ho fatto questa domanda, molti ascoltatori potrebbero dire beh, chiaro a tutti che un aeroporto vive su informazioni digitali oramai, però questo apre naturalmente anche uno scenario sulla sicurezza. Parliamo anche, nelle ultime settimane abbiamo parlato di spionaggio digitale, di attacchi digitali, di crimine digitale, alcuni addirittura dicono guerre digitali. Negli ultimi anni quanto è cresciuta l'esigenza degli aeroporti e delle compagnie aeree di proteggere le proprie reti? Perché uno può pensare, così come posso attaccare una banca, se attacco un aeroporto si ferma il traffico aereo di mezzo mondo. Assolutamente sì, questo è cresciuto in maniera esponenziale, cioè è impensabile oggi di poter offrire sistemi informatici in un aeroporto senza che questi siano sicuri. Mi verrebbe da chiederle se ci sono gli attacchi informatici anche nei confronti di aeroporti e compagnie aeree, ma aspettiamo un minuto prima di rispondere. Questo è 2024, vi aspettiamo tra poco. 2024. Ricordate che il modo più semplice per riascoltare 2024 è sottoscrivere il servizio podcast e in questo modo avete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Trovate tutte le informazioni online sul nostro sito internet www.radio24.it, cliccate su podcast oppure scriveteci una email a 2024@radio24.it. Stiamo parlando del, potremmo definirlo così, passeggero digitale, ma anche degli aeroporti e delle compagnie aeree digitali. È con noi Francesco Violante, che è amministratore delegato di SITA, la più grande società al mondo che fornisce soluzioni tecnologiche alle compagnie aeree e anche agli aeroporti. Violante, dicevamo poco fa della sicurezza. Le compagnie e gli aeroporti subiscono anch'essi attacchi informatici? Sicuramente sì, ci sono per tutte le altre realtà. È chiaro che poi ci sono molti punti d'ingresso nella rete di una compagnia aerea, perché essendo presente in diversi aeroporti, a maggior ragione più vulnerabile, quindi bisogna veramente avere dei sistemi che proteggano e che quindi creano dei cosiddetti firewall o sistemi che consentano lo schermaggio di informazioni. Sì. Da questo punto di vista mi sembra che negli ultimi tempi siano stati più sicuri i sistemi informatici rispetto a tutti i sistemi dove in qualche modo entra prepotentemente la mano dell'uomo, il controllo dell'uomo. È vero, però è anche vero un altro aspetto, che il controllo dell'uomo entra al momento terminale di un processo, cioè quando il terrorista di turno si presenta al gate e quindi magari l'uomo non è attento a fare tutte le verifiche necessarie. Il vero problema, secondo me, è poter affrontare il sistema di sicurezza un po' più a monte, cioè passare da quelle che sono soltanto le informazioni biometriche su un passeggero alle informazioni biografiche su un passeggero. Quindi sapere per tempo chi viaggia, dove ha fatto il proprio check-in, come ha pagato, che tipo di profilo ha. Da questo punto di vista il processo di digitalizzazione del passeggero, perché oggi il passeggero può acquistare il biglietto, ma lo sappiamo tutti, online, in maniera autonoma, fino ad arrivare al check-in sul proprio telefonino, quindi senza toccare carta, senza vedere addirittura persone, fino a che arriva al controllo prima di entrare al gate. In questo anche la sicurezza ha tratto un beneficio? Sì, certamente. Cioè, se noi guardiamo le fasi del viaggio, diciamo, si possono dividere in quattro fasi. C'è la parte di pianificazione del viaggio, dove i sistemi di self-service cosiddetti che utilizzano i mobile entrano in vigore ormai, quindi mi riferisco al booking di un biglietto, cioè la prenotazione online, cioè al biglietto elettronico e ai pagamenti fatti attraverso il sistema, il cellulare, diciamo. E questo oggi è già possibile e si vede che la percentuale di passeggeri digitalizzati che utilizzano queste tecnologie continua ad aumentare. Oggi ci sono 600 milioni di biglietti venduti online l'anno e diventeranno presto un miliardo di biglietti in 3 anni. Il 15% dei passeggeri utilizza sistemi di web check-in. Però 15% uno potrebbe pensare di più. Ma continua a crescere, sì, certo. Continua a crescere tantissimo. E questa è la fase di pianificazione del viaggio. E chiaramente qui entrano in funzione dei sistemi di sicurezza, perché bisogna garantire che i pagamenti siano effettuati correttamente, che le informazioni, le identità non siano utilizzate da altri, e quindi questo è un problema simile a quello della sicurezza su internet. Poi c'è la fase di partenza e anche lì si va verso i sistemi self-service, quindi si va a un chiosco senza andare più al gate e quindi si fa il check-in direttamente con le informazioni, con il proprio passaporto eccetera, a un chiosco, oppure si può fare il check-in con il proprio mobile phone, ricevendo la boarding pass, il biglietto, diciamo la carta d'imbarco in maniera elettronica sul cellulare. Fermiamoci un attimo qua, perché forse in alcuni paesi del mondo questa è un'esperienza abbastanza comune, in Italia no, perché si è cominciato da poco, almeno sulla tratta Roma-Milano, a fare questa sperimentazione, che dovrà essere estesa poi sia ad altre compagnie ma anche ad altre tratte aeree. Quindi ci vuol dire che è possibile avere sul proprio display dello smartphone la carta d'imbarco vera e propria. Sì, con il barcode che arriva sul proprio display, questo è possibile. Ci sono ed è una cosa sicura, non è che poi io posso passare la mia carta d'imbarco no, ad un altro. No, assolutamente no. Poi si arriva, ci sono dei sistemi in cui si passa attraverso i sistemi di sicurezza con il proprio cellulare, e quindi ci sono dei lettori che leggono la carta d'imbarco e poi ci sono, c'è la verifica dei documenti ovviamente, e poi si arriva direttamente al gate d'imbarco. E questo riduce moltissimo le code. Sì. Adesso noi le vediamo soltanto da un punto di vista di sicurezza o di digitalizzazione, ma il vantaggio è la semplificazione del viaggio. Sì. Una cosa interessante è quanto il cellulare e diciamo il collegamento che la compagnia ha, l'aeroporto ha con il passeggero, è che il ruolo del cellulare è anche all'interno dell'aeroporto. Sì. Parliamo spesso anche su Radio 24, un tema che tocchiamo spesso è quello dei servizi basati sulla geolocalizzazione. Chiaramente sì, l'aeroporto è un luogo molto più piccolo dove localizzare un telefono è forse un po' più difficile, però vedremo, non so se già oggi, ma sicuramente vedremo nei prossimi anni, servizi basati sul luogo dove siamo all'interno dell'aeroporto. Che cosa significa questo? Ma questo è un punto molto importante. Nel momento in cui si comunica con il passeggero attraverso il proprio cellulare, si sviluppano delle esigenze di tipo diverse. Mentre prima il check-in veniva fatto fisicamente nell'aeroporto, oggi è possibile farlo sul proprio cellulare. Per cui i casi di passeggeri che non si presentano in tempo alla partenza di un aereo continuano ad aumentare. Per cui questo provoca dei ritardi, dei problemi di sicurezza e di costi per un aeroporto e per una compagnia aerea. Per cui diventa necessario individuare i passeggeri e sapere dove si trovano, se sono ancora nel taxi o se sono arrivati all'aeroporto, per cui è importante con questi servizi di localizzazione tramite cellulare individuare dove si trovano e dare informazioni specifiche al passeggero. Oggi è possibile sapere che il passeggero si trova in un'area del duty free e dire: guarda, il tuo volo sta partendo, segui queste direzioni e vai a questo gate o questo punto d'imbarco. E queste cose diventeranno sempre più necessarie per consentire alle compagnie aeree di offrire un servizio migliore al passeggero. Quindi diventa un rapporto di informazione diretta dalla compagnia aerea o dall'aeroporto al passeggero in maniera individuale in funzione del posto in cui lui si trova. Un'altra fase del viaggio è il volo vero e proprio. Esattamente. E anche qua già oggi cominciamo a vedere alcuni servizi, banalmente la telefonata, che non è più la telefonata fatta con un telefono magari un po' complesso che era annegato nel bracciolo della poltrona, ma è il nostro cellulare vero e proprio. Voi avete una società che si occupa di questi servizi e anche in questo caso vedremo, uso il futuro perché alcuni di questi servizi sono già oggi attivi, ma non sono forse popolarissimi, non sono ancora servizi di massa. Sull'aereo, che cosa succederà? Allora, sull'aereo già oggi ci sono delle società, delle compagnie aeree che offrono questi servizi, è possibile con il proprio cellulare effettuare telefonate o ricevere sms, mandare sms, quindi fare i servizi tipici che si hanno quando si è a terra. Come fossimo in roaming all'estero. Infatti una società che noi abbiamo si chiama Onair, è un roaming operator in the sky, cioè nel cielo, è il roaming operator. Però secondo me si va anche oltre, cioè a parte la connettività internet che si può usare tramite GPRS con il suo BlackBerry o l'iPhone, oggi può in aereo essere collegato a internet, quindi scambiare informazioni, ricevere email. Io penso che in prospettiva sarà possibile anche, e questo è vicinissimo, già ci sono degli esempi, utilizzare il proprio iPhone, il proprio smartphone, diciamo, per poter vedere per esempio dei film. Oggi con un server in un aereo, con una rete wireless, lei può scaricare da questo server i film che sono stati caricati nel momento in cui l'aereo era parcheggiato in aeroporto tramite un gateway, tramite un link ad alta velocità, vengono scaricati tutte le librerie di film disponibili nel server, quando lei viaggia entra con il suo smartphone in aereo e si porta, diventa collegato a una rete wireless in aereo e si scarica sul proprio smartphone o PC eccetera il video che vuol vedere, quindi non dipende più da un sistema preconfigurato che esiste in aereo e che costa tanti anche soldi di investimento alla compagnia aerea. Quindi una maggiore flessibilità, non solo, ma essendoci un collegamento via satellite con le reti internet, potrà vedere i suoi podcast, potrà ricevere i suoi trailer di film se vuole e quindi poter essere collegato con il mondo così come lo è a terra. Senta, in questo momento che stiamo vivendo e che ha colpito anche il traffico aereo e le compagnie aeree, tutti questi scenari che abbiamo descritto, soprattutto quelli più forse affascinanti per i consumatori a bordo, continuano il trend che conoscevamo fino a qualche tempo fa o le cose si stanno un po' rallentando? No, io penso che è vero, c'è stato un momento di crisi e questo continuerà, cioè che, questo è un po' la ricerca di efficienza è qualcosa che deve continuare ad esserci sempre, però allo stesso tempo c'è una trasformazione e la trasformazione in atto è quella che consentirà alle persone di utilizzare queste tecnologie che diventeranno le cosiddette commodity per tutti, quindi ci sarà un nuovo modo di viaggiare. Noi dobbiamo pensare alle generazioni di giovani che oggi utilizzano il cellulare, utilizzano le tecnologie e saranno i passeggeri del futuro e loro viaggeranno in maniera diversa da come viaggiavamo noi alcuni anni fa. E siccome gli investimenti in questo settore sono investimenti che duraturi, cioè se una compagnia aerea oggi compra un aereo lo terrà per 20 anni almeno e quindi è necessario già equipaggiare oggi con queste tecnologie gli aerei che viaggeranno per i prossimi 20 anni, quindi è un trend normale secondo sì, me. Questo della visione di lungo periodo è una tipicità dell'industria sì. Aeronautica. Sì, perché gli investimenti sono di lungo termine. Certo, senta, le faccio un'ultima domanda sul suo lavoro che faccio anche ad altri manager che per forza di cose devono viaggiare. La vostra società ha sede a Ginevra, lei diceva siamo presenti in 220 paesi del mondo, lei quanto viaggia? Tanto, questo è un aspetto positivo e quindi c'è anche un interesse personale a semplificare l'esperienza di viaggio dei passeggeri. Bene, grazie a Francesco Violante per essere stato con noi, buon lavoro e buon viaggio anche. Grazie. Chiudiamo questa parte dedicata agli aeroporti, alle compagnie aeree, ai passeggeri digitali. Tra poco parleremo delle chiavette USB per navigare in internet sfruttando la rete di telefonia mobile. Questo è 2024, ci risentiamo tra circa un minuto. Seguiteci ogni settimana, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Adesso in questa ultima parte parliamo delle chiavette USB per navigare in internet. Ci sono tantissime offerte, nelle ultime settimane ci sono anche alcune novità. Alcuni ascoltatori ci hanno scritto chiedendo informazioni, chiedendo chiarimenti. Allora oggi vogliamo parlarne con Massimo Morandi, il nostro esperto di telefonia mobile, ormai un mondo che si allarga sempre più mese dopo mese. Massimo Morandi è direttore di Cellulare Magazine e anche di Smartphone Magazine. Massimo, bentornato a 2024. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Diciamo subito a che cosa servono queste chiavette USB. Io ho detto che servono per navigare in internet e già qua potremmo terminare la nostra spiegazione, ma diciamo qualche cosa in più. Vanno attaccate di solito ai computer e ai computer portatili perché sono un oggetto che serve soprattutto in mobilità. Esattamente, servono per dare connettività e connessione a internet, ai portatili, quando non abbiamo una presa fissa per navigare in internet. Quindi spesso servono in mobilità, poi abbiamo visto che nel tempo l'utilizzo del consumatore è anche un po' cambiato e la chiavetta serve anche per navigare in internet quando ci si trova a casa, sempre se non si ha una connessione telefonica a portata di mano. E una cosa che dico sempre è che nel caso appunto di una scelta come collegamento primario, laddove è possibile, è sempre meglio optare per la DSL, quindi per il cavo che offre più stabilità, più affidabilità, spesso anche più capacità di banda, anche se forse le pubblicità ci sviano ogni tanto. Infatti oggi vogliamo anche parlare di alcune novità. Quindi laddove è possibile preferite la DSL o la fibra ottica per i più fortunati. Certo che ci sono differenze di prezzo perché oramai anche per questo settore, cioè quello delle chiavette USB per collegarsi ad internet, che poi si collegano e sfruttano l'UMTS, giusto, il 3G. Sì, esatto. L'UMTS nelle sue diverse declinazioni quindi HSDPA, HSUPA e tutte le sigle che significano cosa? Dei miglioramenti dell'UMTS per far correre i dati più veloci. Dicevo che anche in questo settore stiamo vedendo una esplosione di tariffe, cioè ci sono tariffe a traffico, tariffe a tempo, tariffe ricaricabili, abbonamenti, insomma c'è una buona offerta. Sì, i gestori hanno scelto un po' di suddividere la loro offerta o a tempo o a traffico, perché c'è un'utenza che si riconosce in un tipo e un'altra utenza che si riconosce in un altro. Questa settimana poi in particolare ci sono stati veramente i fuochi d'artificio. Perché? Perché sono stati presentati nuovi prodotti. È partita TIM e ha presentato una nuova chiavetta con una velocità più forte. Cosa significa? Significa che fino ad oggi le reti e le chiavette disponibili andavano a 7,2 megabit al secondo come velocità nominale massima, quindi sì. Questo è bene chiarirlo, quindi diciamo, è una velocità che non si può sempre ottenere, sì, ma sì. Si ottiene con diverse condizioni, a seconda di dove ci si trova e a seconda di quale gestore si sceglie. Se sotto la rete, se c'è poca gente collegata. Diciamo che queste sono velocità che piacciono molto al marketing. Molto, ovviamente, esatto. No? Vengono sfruttate molto bene. E poche ore dopo possiamo dire Vodafone ha annunciato un'altra chiavetta che è immediatamente finita sul suo sito internet con velocità doppia, quindi 28,8. Quindi abbiamo in pratica triplicato le velocità disponibili in una settimana. In realtà cosa significa? Significa che sul 14,4 si sta lavorando. TIM ha dichiarato di aver aperto alcune stazioni radiomobili in alcune grandi città. Noi tra l'altro abbiamo iniziato a provarla e l'abbiamo trovata in un paio di luoghi a Milano, naturalmente grandi città e poi tutto il resto del territorio. Quello che forse stupisce di più è l'annuncio del 28,8 di Vodafone. In effetti è chiamato 28,8 ready. Cosa vuol dire? Siamo un po' esagerato. Ma significa che quella chiavetta è compatibile, è pronta per quella velocità, ma quella velocità, la 28,8, ancora non c'è. Quindi questo è bene quindi dirlo. Se si acquista una cosa, diciamo, ci si prepara per quello che succederà fra qualche mese, forse in estate o in autunno, però attualmente. Ecco, la realtà dei fatti, oggi diciamo che la maggior parte delle reti può spingersi fino a velocità di grosso modo 7 megabit al secondo. Sì, esatto. Okay. Poi nella realtà si va un po' meno. Quindi non... Dipende anche naturalmente dal luogo. Sì, certo, dal luogo, dalla chiavetta che si ha, dalla capacità della rete, eccetera, eccetera. Tanto per far capire ai nostri ascoltatori, un 7,2 è magari un po' più difficile da raggiungere in certe zone montane ed è molto facile raggiungerlo nelle città. Ok, ok. Senti, ecco, con questi nuovi prodotti, partiamo dalle chiavette che vanno a 14,4 di potenza massima, poi nella realtà dei fatti a quanto si va, se si trova poi l'antenna buona, perché non tutta la rete è performante. Ma direi che l'aumento della velocità di rete e i lavori che stanno facendo gli operatori, in questo caso parliamo di TIM, serviranno soprattutto per far andare tutti a 7,2. E questo è importante, perché ti assicuro che 7,2 con una chiavetta è una velocità più che accettabile e con cui si può lavorare molto bene. E permetterà poi, piano piano, che tutte le stazioni verranno aggiornate con software specifico, permetteranno a chi invece compra una chiavetta da 14,4 di andare a 8, a 9, a 10. Insomma, piano piano la velocità crescerà. Ok, senti, per quanto riguarda 28,8 valgono le stesse considerazioni, posto che il 28,8 non esiste e non si può usare. Quindi... Io infatti mi fermerei alla considerazione sul 14,4, perché entrambi gli operatori su questo stanno lavorando, secondo me nel giro di poche settimane cominceremo ad avere molti punti dove si potrà lavorare con questa velocità. Sul 28,8 sono un po' più scettico, secondo me ci vorrà qualche mese. Certo, è un po' come quando venivano venduti i primi TV HD ready, cioè pronti per l'alta definizione, ma di fatto non c'era nulla in alta definizione. Sai, il consumatore, si parte dal punto di vista che il consumatore, quando fa un acquisto, preferisce comunque, spende naturalmente dei soldi. Diciamo cerca... che preferirebbe non spenderli, però. Ma naturalmente compra un prodotto deve spendere dei soldi e preferisce spendere qualche euro in più, perché comunque i costi, come poi possiamo vedere, sono abbastanza contenuti per questo tipo di prodotto, ma essere poi sicuro che tra qualche mese non avrà in tasca un prodotto vecchio, certo, e che comunque lo potrà utilizzare al meglio mano a mano che poi la rete seguirà lo sviluppo. Sì. Su una cosa penso possiamo concordare, che ancora una volta, spesso l'abbiamo ripetuto da questi microfoni, i prodotti, l'hardware, che siano telefonini, in questo caso chiavette, vanno più veloce della tecnologia che gli operatori riescono a supportare. Sì. E questo è sicuramente motivo di riflessione. Certo, perché è più facile, diciamo, mettere nei negozi o sul sito internet un nuovo prodotto piuttosto che fare un upgrade di rete, che in questo caso, come del resto negli altri casi dell'UMTS, è un upgrade sostanzialmente software, non è che bisogna andare a cambiare le antenne di tutta Italia. No, assolutamente, però è comunque un procedimento impegnativo, non sempre breve e molto costoso. Costoso. A proposito di prezzi per il consumatore, oggi questi prodotti quanto costano? Cioè, per, diciamo, entrare in contatto con questo mondo, quindi l'entry level delle chiavette USB per navigare su internet sfruttando la rete di terza generazione, quanto costano? Guarda, spesso poi ci sono dei piani che regalano del monte dati o dei monti ore, però grosso modo, le chiavette più a buon mercato si trovano a una trentina di euro. Okay. E le chiavette più costose si trovano a 79-89 euro. Okay, stiamo parlando di queste ultime appena uscite. Certo. Quella di Team costa 89. Quindi comunque dei costi abbastanza contenuti. E in questa cifra d'acquisto poi sono sempre presenti o le 100 ore o i 3 mesi gratis di navigazione. Bene Massimo, io ti ringrazio per essere stato con noi per questa panoramica. Quindi insomma consigliamo prudenza prima di avvicinarsi a questi nuovi prodotti. Noi ci risentiremo sicuramente presto, perché ricordiamo che a metà del mese, dal 15 di febbraio, c'è a Barcellona un appuntamento che è per addetti ai lavori, però serve un po' per fare il punto della situazione di questo mercato, che forse al mondo è il mercato che cresce ogni anno sempre di più, a volte rallenta un po', forse l'anno scorso c'è stato un rallentamento epocale, però insomma parliamo del, non ho detto io. Parliamo del Mobile World Congress di Barcellona, che è la fiera dei telefonini, una delle esposizioni più importanti del mondo. Hai detto bene, è una fiera per addetti ai lavori, ma alla fine da quella fiera escono tutti i prodotti che nei prossimi mesi i consumatori si metteranno in tasca. Bene, grazie Massimo, buon lavoro, a presto. Buon lavoro anche a voi. Prima di salutarci, una considerazione importante per ribadire cose anche dette poco fa su questi prodotti, che possono essere un ottimo strumento per connettersi ad internet in mobilità o per un uso saltuario, ma ribadiamo che il cavo, la DSL, ma a maggior ragione la fibra ottica, ci forniscono un servizio più stabile e più affidabile. I servizi mobili sono, come abbiamo detto più volte, soggetti più che il cavo a problemi di affollamento. Se ci sono troppe connessioni sulla stessa antenna, e nel conteggio vanno considerate anche le persone che stanno telefonando, naturalmente la banda a disposizione, quindi la capacità di fornire un collegamento ad internet affidabile, si riduce. Rimane, e questo è indubbio, il problema dei costi, perché è vero che per avere internet con ADSL una famiglia deve spendere, quando va bene, almeno una trentina di euro al mese, mentre con le chiavette ci sono offerte da 300 ore al mese a 19 euro, quindi sicuramente i costi rimangono inferiori. Quella della riduzione dei costi per accedere ad internet, oltre che della diffusione anche dell'aggiornamento dell'infrastruttura nazionale, è una delle grandi sfide del paese, sul quale in primis il governo dovrebbe intervenire. Non possiamo pensare che internet si diffonde, ed è una cosa che diciamo spesso, diciamo che si deve diffondere per lo sviluppo dei servizi di governo digitale, della pubblica amministrazione digitale, ma se costa così tanto, molto di più ad esempio di un abbonamento a una televisione a pagamento, non possiamo pensare che si diffonda in maniera massiccia. Invece questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. È tutto per questa puntata di 2024. Come sempre noi vi ringraziamo per la vostra attenzione, per averci ascoltato anche questa settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Grazie ad Anita Riotti in redazione, io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana. You are disconnected.